Partiamo subito con la mostra della settimana. E che mostra? Un'esposizione incantevole, marionette avanguardia, Picasso, De Pero, Clé e Sarzi. Sarà fino al 17 marzo a Reggio Emilia, Palazzo Magnani, una sede espositiva che si addice particolarmente, trasformata all'entrata in un teatro, per teatro molto originale, che ci porta nel tempo e ci dà un'emozione veramente magica. Una mostra strutturata in maniera completa e illuminata si sviluppa attorno a questo concetto, cioè la quarta parete. Mi spiego: la capacità di coinvolgimento emotivo che fa di uno spettacolo, di un'esposizione ben riuscita, quella che è una realtà capace di immergere lo spettatore nella storia messa in scena. E questo è il concetto emotivo dell'esposizione. Poi, come percorso in mostra, come periodo storico, avremo modo di dare approfondimento. Grandi capitali come Vienna, come Mosca, poi il passaggio in Italia, dove marionette e questi burattini diventano allo stesso modo un riflesso tridimensionale delle opere di grandi artisti, quando poi gli stessi grandi artisti diventano protagonisti nel creare questi altri motivi di comunicazione, di intrattenimento, ma anche di messaggio culturale, anzi direi soprattutto di un messaggio culturale. Ci sarebbe veramente tanto da approfondire. Ho cercato di contattare più voci possibili, ho avuto la fortuna di essere in presentazione, ho già avuto modo di ammirare questa esposizione che consiglio assolutamente. Il curatore, già presente per la sede espositiva di Brera a Milano, e James Bradburn, che sentiremo tra pochissimo, ma in musica ovviamente. Per quanto riguarda marionette, a me è venuto in mente un brano di un grandissimo, un paesà. Da lui cool jazz, free jazz, ricerca, allo stesso modo si campionava già negli anni passati agli albori di queste prove con espressione musicale di ricerca che andava oltre. Lui è Lenny Tristano, veniva criticato addirittura per queste sue capacità da un pubblico più conservatore, ma poi con lo sviluppo artistico e il talento veramente immenso sarà ispiratore di percorsi jazzistici anche contemporanei. Perché ho scelto questo brano? Beh, il titolo è Marionette, ve lo propongo, poi entriamo in mostra. Marionette avanguardia, Picasso, De Pero, Clé, Sarzi, fino al 17 marzo 2024, ovviamente a Reggio Emilia, Palazzo Magnani. A tra poco. Thank you. Sestetto d'eccezione, Leni Tristano. Prima ho detto si campionava, ecco questo termine improprio, tra l'altro da DJ, beh, come in effetti ieri, ma come un DJ, sì, un DJ, oggi come presentatore di un'esposizione. Però ne approfitto, visto che sono stato così definito, e per me è un grande onore, tra l'altro, questa sera sarò al Binario 69, sempre nella rassegna di Bologna Jazz Festival, per anticipare e posticipare il concerto con selezioni musicali AC Jazz, Funky, Boss and Groove. E quindi, come vi ho anticipato anche quello che è il contenuto odierno della rubrica In Mostra, cominciamo con la nostra rassegna ricchissima di voci. Ecco, abbandonate ogni concetto, eh no, ma è una mostra, poi magari è indirizzata. No, no, è per tutte e per tutti, e soprattutto per tutte le età. Ascoltiamo James Brandburn per quanto riguarda la curatela di Marionette Avanguardia a Palazzo Magnani, Reggio Emilia. Iniziamo questa conversazione con il curatore di una mostra davvero speciale. Intanto ci presentiamo, siamo con James Bradburn, già direttore della Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Bredense. E quindi iniziamo questo percorso a Palazzo Magnani a Reggio Emilia, dei giganti dell'arte declinati in un modo molto particolare. Ci può dire qualcosa di più? Ma veramente è una mostra che si declina in due parti. La parte sul piano terreno è fatto espressamente per incantare, stregare le famiglie e bambini. Ci sono due laboratori con le burrottini e anche le marionette in vivo ogni 30 minuti in performance, e prende la forma di una forma di teatrino vittoriano. Entra già nel palco scenico. Salendo sul piano nobile, comincia un discorso sull'utilizzo delle marionette, le figure in generale, dell'avanguardia, per navigare una tensione fra un teatro di attore e un teatro di regista. E questo era provocato in parte dalla nascita del cinema, in cui il regista giocava un ruolo più importante, e hanno voluto imporsi di più utilizzando le marionette e le figure in generale, i burattini, per mostrare la possibilità di un teatro del gesto astratto in una maniera dell'espressione eccessiva a loro opinione dell'attore stesso. D'apertura ho voluto Marionette, va da sé, già dal titolo della mostra, poi il pezzo è meraviglioso di Leni Tristano. Marionette Avanguardia è il titolo della mostra, per cui insomma l'attinenza c'è. Per quanto riguarda invece il filo conduttore in musica, in jazz, con le grandi sonorità di Roland Kirk, in quanto lui maestro, è assolutamente in mano sua, anzi da ogni dove, gli strumenti, i sassofoni, lo strumento a fiato diventava improvvisamente come un attore da lui stesso creato. Lui, oltre che compositore, musicista, è stato anche fondamentale per creare i suoi stessi strumenti musicali, il saxello, una sua invenzione, e poi tra l'altro sperimentando da ogni dove, suonava con più sassofoni in bocca allo stesso momento, e non solo, aveva capacità attoriale, se vogliamo, per portare su un palcoscenico che diventava veramente un teatro, non solo con la grande capacità espressiva, la grande energia nella musica, ma come ho detto, con l'intrattenimento e la particolarità e la creatività che lo porta a essere vicino a questa esposizione a Reggio Emilia. Procediamo quindi ringraziando ancora James Bradburn per la disponibilità ai microfoni di Radio Città Fujiko, curatore a Reggio Emilia, già curatore, anzi direttore, scusate, per la Pinacoteca di Brera a Milano, e quindi sentiamo come procedere per questa mostra. Come ho già detto più volte, non specifica, anche se il titolo può portare questa confusione, se vogliamo, anche se è abbastanza chiaro, può portare a uno strabismo, ma come, allora è una mostra incentrata? No, è veramente una mostra eterogenea che comprende diverse realtà artistiche, beh, Picasso, De Pero, Klee, Sarzi, e questo dà adito ad avere motivo di incontro e sviluppo per rompere la cosiddetta quarta parete, la capacità di coinvolgimento emotivo che fa di uno spettacolo ben riuscito una realtà capace di immergere lo spettatore nella storia messa in scena. Con tanti laboratori ci sarà modo, anche non solo per i più giovani ma per tutte e per tutti, di entrare protagonisti in questa esposizione a Reggio Emilia. Chi sono i protagonisti? Ho citato dei personaggi importanti che hanno espressione in tutto ciò. Cominciamo con Picasso. Picasso ha fatto espressamente le costume per un spettacolo di Diaghilev, scritto da Jean Cocteau, musiche di Stravinsky, Parade, 1917. E le sue costume trasformavano l'attore in quasi un figura. Erano molto limitanti. Quindi l'attore non poteva esprimersi pienamente, però era in effetto una pupa sul palcoscenico. Dopo passiamo a De Pero, a Brampolini, all'straordinario artista Richard Teschner a Vienna, che era nella città della modernità, nel periodo più vibrante della Vienna post-bellica, insieme con Schoenberg, con Wittgenstein, con Karl Kraus. Lui importava la tecnica delle stecche, le bastone, stavo per sviluppare il suo proprio teatrino delle marionette. Passiamo alla Bauhaus, a Weimar. La fertilità veramente della scuola di design della Repubblica Weimar, e anche le personaggi come Sophie Teuber-Arp, sconosciuta quasi, una delle donne della Bauhaus, che ha fatto le marionette straordinarie per un'opera, per un pezzo di teatro basato su Sigmund Freud. Era infatti una forma di critica di Sigmund Freud. Jack McDuff insieme a Roland Kirk, veramente una colonna sonora per un palcoscenico e marionette avanguardia. E la realtà anche geografica oltre che storica, l'importanza dei percorsi da Repubblica di Weimar fino ad arrivare all'Italia. Parleremo anche di Mosca, siamo in un momento di cambiamento molto intenso, per cui negli anni 20 Vienna, una delle capitali culturali europee insieme a Berlino, fu fucina di creatività nell'arte, nel teatro, nella musica, nella filosofia, nelle scienze. E alla fine dell'Ottocento, sull'onda di un orientalismo, le classiche marionette giavanesi che cominciano ad apparire sulle scene europee. Abbiamo diverse illustrazioni, anche diverse modalità di proiezione per quello che era lo sviluppo nell'arte della marionetta. Marionetta a bastone, appunto, comandata in questo modo fino a raggiungere un punto culminante che influenzò artisti da Parigi a Mosca. Ecco, tutto ciò potete immaginare in un percorso con sede espositiva perfettamente in dialogo coi contenuti della mostra. Paul Klee e tanti altri, fino ad arrivare a Oskar Schlemmer, avremo modo di parlare con il nipote di Oskar Schlemmer nella seconda parte della rubrica in mostra, tra i fornitori per la provenienza delle opere. Ecco, importante, oltre che per il Bauhaus, come è già stato citato, come mi ha anticipato giustamente il curatore James Bradburn, importante anche l'approccio con Mosca e con la neonata Unione Sovietica per quanto riguarda il teatro e le marionette, al contempo con una grande avanguardia. Centrale è la sala dedicata a Oskar Schlemmer, che è uno dei grandi del Bauhaus, un grande di questo periodo, e abbiamo una stanza dedicata a lui con una grande figura in filo d'acciaio. Passando oltre le Bauhaus ci troviamo nell'avanguardia russa, anche un momento estremamente fertile, fecondo, dedicata ai bambini, perché ovviamente Lenin e la sua moglie Krupskaya erano convinti che il futuro della Repubblica Sovietica era con i bambini. Finiamo con un grande personaggio reggiano, Otello Sazzi, che era una figura comunista, partigiano, ha utilizzato le burattini per ridare la voce del burattino nel piazza. Pensiamo a Fagiolini, a Pulcinello, a Casper. Sono le voci sovversive, le voci di resistenza, perché non possiamo mandare Fagiolino in galera. Quindi è la voce del popolo. Andava sempre in baracca con suo padre, dopo il nome suo, ha sviluppato un approccio al burattino nel periodo post-bellico molto importante. Quindi facciamo il giro nel mondo per tornare, infatti, a Reggio Emilia. Io la ringrazio tantissimo e le auguro buona giornata. Grazie tanto. Ecco, su queste note Roland Kirk dà veramente un'idea del sipario, delle note che stanno chiudendo. Ma è chiusa la prima parte, vi ho detto di un'intersezione con la sede espositiva a Palazzo Magnani, e avremo il direttore dopo la pubblicità con noi per dare voce anche a questo importantissimo aspetto di marionette avanguardia. Cito più volte il titolo perché è una mostra da non perdere. Ogni mezz'ora che va a questo spettacolo, io poi sono capitato in conferenza nello spettacolo dove c'era l'introduzione del nostro dottor Balanzone, poi arrivava Fagiolino, in questo caso con un accento più reggiano, quindi magari dato in prestito alla città di Reggio, e ovviamente quello preso in giro chi era? Sandrone da Modena, ed è stato non esattamente un burattino che avesse modo di rappresentare una bellezza estetica, anzi Sandrone aveva questa caratteristica, però insomma tutti ovviamente coinvolti, incantati a guardare da vicino questa rappresentazione che apparentemente è immediata, mentre invece richiede indubbiamente motivo di attenzione ulteriore. Ecco, a proposito di attenzione, vi sono possibilità in ogni angolo di interagire, pensate, con queste opere d'arte, possibilità di diventare noi stessi vicino a burattini e marionette, possibilità di avere immagini vicino, e soprattutto, è la prima cosa che ho detto a James Bradbury, Io la ringrazio perché per una mostra così non c'è né un tablet, né un computer, né niente di tutto ciò. Ci sono le nostre mani, i nostri occhi e il nostro cuore. Fine. Quante volte ne siamo rimasti affascinati, ma nello stesso tempo anche un po' inquieti, al modo da arrivare ad allontanarci dicendo sì, ma poi alla fine sono burattini, sono le marionette, no? È anche un termine a volte spregiativo. Ecco, stravolgete tutti questi concetti, abbandonate ogni motivo per allontanarsi da questo, ma cerchiamo di capire come tutto quello che è un'espressione artistica e culturale e che dà modo di visione con altre realtà di espressione artistica può essere motivo di crescita, di curiosità, di arte, di cultura, perché in effetti così è, e soprattutto con la vicinanza alle avanguardie, come vuole mettere in collegamento l'esposizione di Reggio Emilia, è indubbiamente valore aggiunto anche per capire la stessa metodologia e percorso nelle avanguardie europee. Interessante la parte d'approfondimento, come diceva Lenin, l'avanguardia deve anticipare il popolo di 3 passi, non di 10, e quindi avvicinarsi da subito ai bambini, ai giovani, indubbiamente è motivo ancor di più per crescere, per conoscere, per averne una curiosità. Ecco, sarebbe già importante ai giorni nostri, ed è fondamentale, almeno in questo spazio, non avere dei computer, dei tablet, delle... Ecco, questo è già un passo molto importante. Il direttore di Palazzo Magnani, Davide Zanichelli, sono riuscito a intercettarlo prima dell'inizio della conferenza e, come ho già detto, trasformare l'entrata di Palazzo Magnani in questo originale teatro, beh, indubbiamente un motivo di accoglienza bellissimo per il visitatore. Grazie per la disponibilità al direttore della sede espositiva di Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia, e quindi già la conversazione con il curatore di questa fantastica esposizione, che devo ancora vedere, però alla diversi motivi di dialogo. Ad esempio, direttore, l'intersezione tra il percorso espositivo e la sede espositiva è stata una bella sfida, perché abbiamo deciso fin da subito di allestire gli spazi espositivi come se fosse un teatro. E quindi la sfida per gli architetti è stata quella di far convivere le stanze di un palazzo rinascimentale come il nostro con le necessità, appunto, del visitatore, che si deve sentire immediatamente immerso e trasferito in un altro mondo, che è il mondo magico del teatro. E pensiamo di esserci riusciti, perché proprio appena varcata la soglia si viene proiettati in un'altra dimensione. E a piano terra sono stati proprio allestiti 2 spazi scenici dove a ritmo continuo burattinai e marionettisti animeranno la visita alla mostra, perché pensiamo che una mostra, appunto, su burattini e marionette possa essere pienamente compresa se si riesce anche ad assistere alle performance live, altrimenti diventa qualcosa di morto e di documentale, e non ci interessava questo tipo di approccio. piccola nota su un curatore quanto mai illuminato come James Bradbury. Quando sono arrivato ho trovato nel suo abbigliamento questo gilet che portava sotto una giacca classica. Da questo gilet color rosa spuntavano da tanti taschini dei bambolotti stile, chi se lo ricorda, fiammiferino. Ecco, stile tanti fiammiferini che spuntavano. Allora così mi sono presentato, lui ha dato disponibilità alla conversazione e per tranquillizzare, oppure io pensavo di mettere a suo agio, ho detto siamo una radio, per cui non si preoccupi, ci sediamo qui tranquillamente. Ah, quindi non c'è video in questo caso. Si è guardato i suoi piccoli bambolotti che spuntavano dalla tasca come per dire: ma guarda te, io che ho così voglia di farli vedere, ma mi fa che peccato. Dopodiché in mostra ogni tanto io mi allontano, perché dopo aver avuto la conversazione così viso a viso cerco di godermi, mi permetto di dire, la mostra così da solo. A un certo punto da una parete vedo come dei pupazzi muoversi, come vado dietro a questa parete e c'era Bradbury che stava mettendo in movimento queste figure, passando la mano attraverso un buco nella parete e dando vita a questi pupazzi, a questi protagonisti, altro che pupazzi. Per cui, come questo è uno dei tanti motivi. Poi vabbè, c'è l'immagine in cui sto guardando questa figura su una panchina e veramente c'è uno scambio di ruoli incredibile. La volevo mettere anche come immagine, ma non volevo essere autocelebrativo, ma è uno scambio di ruoli bellissimo, cioè il pupazzo sembro io e questa figura sembra invece la parte attiva, un po' infastidita che io mi sia avvicinato così. A dire una cosa ovviamente così scontata, ma è per tutte e per tutti. È per tutti e ovviamente per i bambini che si muoveranno nel loro elemento favoloso e fiabesco, ma è una mostra per educatori, è una mostra anche per operatori del sociale, perché la marionetta e il burattino sono strumenti di lavoro con le persone, anche con problematiche sociali, problematiche psichiche che sono state proprio utilizzate, indagate tra l'altro da Otello Sarzi e dalla sua squadra negli anni 70-80 qui a Reggio Emilia. E è una mostra anche per adulti, perché quello che rimane dentro ciascuno di noi di incorrotto è sempre vivo, è quello spirito infantile che si stupisce di fronte alla magia, e quindi penso che sarà apprezzata tantissimo anche dagli adulti. Ci sono eventi paralleli, incontri, laboratori? C'è un programma fittissimo che trovate sul sito palazzomagnani.it. Sono incontri di approfondimento sulle varie tematiche proposte, quindi futurismo, Bauhaus, l'influenza anche della Russia importantissima sul teatro di figura del Novecento, approfondimenti sulla famiglia Sarzi e sull'importanza che Sarzi ha avuto proprio nel rivoluzionare questa forma d'arte, soprattutto in direzione dell'educazione, e laboratori proprio a ritmo continuo, visite guidate per scuole, gruppi, famiglie e bambini, soprattutto nel weekend. La mostra ha durata fino al? Fino al 17 di marzo e siamo aperti dal mercoledì alla domenica. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Sapete che Roland Kirk suonava anche col naso certi strumenti a fiato? Pensate la potenza. Io vorrei chiudere con la voce, con chi ha tra virgolette ereditato, che ha dato la possibilità in sezioni importanti in questa esposizione, con tante opere d'arte direttamente a Palazzo Magnani, una provenienza altrettanto forte con Raman Schlemmer, che sono riuscito negli ultimi minuti di presentazione ad appartarmi per sentire anche i percorsi e la provenienza di queste splendide opere. Allora, facciamo una presentazione completa anche con la provenienza delle opere, che sono veramente incantevoli. Siamo con C. Raman Schlemmer, nipote di Oskar Schlemmer, sono il figlio della figlia di Oskar Schlemmer. E quindi ci può dire qualcosa di più a proposito di quello che stiamo ammirando? Ma abbiamo qua delle opere del mio nonno, che era di Oskar Schlemmer, che è molto conosciuto per le sue creazioni di danza, che aveva una grande influenza sulla performance art anche di dopoguerra fino ad oggi, e che ha creato il balletto triadico nel 1922, il cabinetto figurale e le danze del Bauhaus. Poi nel suo danza era sempre l'uomo nel centro, l'essere umano, non era la pura marionetta. E così abbiamo provato di presentare in questa piccola collezione qua presente questa importanza dell'essere umano, questo approccio umanistico all'arte, che era molto importante. Il Bauhaus diventava sempre più tecnico, Schlemmer diventava sempre più figurativo e umano. Umano, sì. E questo dialogo fra la pittura, la scultura, il palcosceno, la figurina, e poi lui ritornava nel quadro e nella scultura. C'è un dialogo in continuazione, e questo siamo riusciti a realizzare con qualche opera qua in questa mostra. Sì, ed è una bella risposta anche alla digitalizzazione imperante, sì, questo sì. Aspetto umano. Sì, assolutamente, è molto importante, e credo che un messaggio molto importante anche oggi, che muoviamo sempre più nella tecnica, e di avere questo aspetto che per lui al centro naturalmente anche della creazione era l'essere umano. Sì, è una possibilità importante. In più che è una mostra anche molto interattiva, c'è la possibilità anche di giocare. Sì, sì, assolutamente. E per i giovani è l'ideale. Sì. Molto importante. Io la ringrazio tanto. Grazie. Complimenti, buona giornata. Sì. Venite a vedere la mostra. Venite a vedere la mostra. Questa è la chiusura. No, è emozionante, veramente. Perché sentirsi al centro di tutto ciò, come ha detto giustamente Raman, e grazie a queste immagini, è il motivo per porsi quella domanda che ci fa sentire. Pensate, grazie a queste figure, che a volte definiamo anche in maniera pupazzi, marionette, e sentirsi veramente al centro di tutto ciò grazie agli interrogativi che ci pongono, al motivo di essere assieme a loro sul palcoscenico, è qualcosa di veramente coinvolgente. Marionette avanguardia, oltre che di una bellissima estetica. Picasso, De Pero, Klee, Scarzi, fino al 17 marzo 2024, è la mostra portata oggi nello nostro spazio dedicato all'arte, che è finito alle 8:49 minuti. Tra poco avremo l'Edipo enciclopedico, seguirà Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Domani triplo appuntamento in scena, come ogni venerdì, per la prima colazione in diretta alle ore 7, puntualissimi con il Breakfast Club. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon giovedì e un buon ascolto sui 103.1, e non manco certo di mandare alle ascoltatrici e agli ascoltatori un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Ciao, a domani!